Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Non mi è mai piaciuto stare in compagnia men che elevata e detesto tutte le descrizioni di vita plebea. Perciò il mio resoconto dell'ambiente in cui a questo punto venni a trovarmi dovrà per forza di cose essere breve. Il solo ricordo mi dà un profondo disgusto. Ah, il pensiero di quell'orribile fossa nera in cui noi soldati eravamo confinati. E quelle disgraziate creature con cui ero ora costretto a mescolarmi, bifolchi, cacciatori di frodo, borsaioli, che laggiù avevano cercato rifugio dalla povertà oppure dalla legge, come a dir la verità avevo fatto io stesso. Tutto questo basta a riempirmi di vergogna anche adesso, e le mie vecchie guance arrossiscono quando penso che sono stato costretto a intrattenermi con loro. Avrei ceduto alla disperazione se certi eventi non avessero contribuito a risollevare il mio spirito e a consolarmi, fino a un certo punto, della mia sfortuna. La prima delle mie consolazioni fu una bella lite. Fu il giorno dopo il mio arrivo sul trasporto, con un enorme mostro dai capelli rossi. Era stato un portantino e si era arruolato per sfuggire a una megera di moglie che, per quanto lui fosse un buon pugile, era sempre stata un avversario più che alla pari. Non appena quest'individuo, Tull, si chiamava così, lo ricordo bene, si strappò dalle braccia della sua signora, che faceva la lavandaia, coraggio naturale e ferocia gli tornarono in pieno e divenne il tiranno di tutti quelli che aveva attorno. Le reclute, in particolare, erano sempre oggetto degli insulti e dei maltrattamenti di questo bruto. Io non avevo soldi, come ho detto, e me ne stavo seduto, tutto sconsolato, davanti a un piatto di pancetta stantia e galletta ammuffita che c'era stato dato per il rancio, quando venne il mio turno di ricevere da bere. Mi diedero, come a tutti gli altri, un sudicio gotto di stagno, con poco più di mezza pinta di rum annacquato. E il recipiente era così unto, così sordido, che non potei trattenermi dal voltarmi verso l'uomo che distribuiva il rancio e dire «Amico, portami un bicchiere!» Al che tutti quei mascalzoni attorno a me scoppiarono in una risata fragorosa e più forte di tutti, naturalmente, sghignazzava Mr. Tull. «Portate a questo gentiluomo un tovagliolo per le mani e servitegli una scodella di zuppa di tartaruga!» gridò quel bruto, seduto, o meglio accovacciato, di fronte a me. E mentre parlava, d'un tratto afferrò il mio gotto di grog e lo rovesciò, accompagnato da un applauso generale. «Se vuoi mandarlo in bestia, chiedigli di sua moglie, la lavandaia, che lo picchia!» bisbigliò allora nel mio orecchio un altro degno compare, un giovane fiaccolaio che, stufo della sua professione, aveva scelto la vita militare. «Quello che volete darmi è un tovagliolo lavato da vostra moglie, Mr. Tull?» dissi io. «Mi dicono che ne usava spesso per ripulirvi la faccia!» «Chiedigli perché non voleva vederla ieri, quando è venuta a bordo», riprese il fiaccolaio. E così gli infilai qualche altro stupido scherzo a base di saponata, mogli bisbetiche e ferri da stiro, tutte allusioni che lo facevano infuriare. E riuscii finalmente a far nascere una lite tra di noi. Ci saremmo buttati subito l'uno sull'altro, ma un paio di fanti di marina, che erano rimasti di guardia alla porta, ghignando di gusto, vennero a interporsi con le baionette all'asta, per paura che ci pentissimo dell'affare che avevamo fatto arruolandoci e ci venisse in mente di scappare. Il sergente discese la scala e, una volta informato della disputa, finì col dichiarare amabilmente che potevamo deciderla battendoci da uomini, cioè a pugni se proprio ci tenevamo. Il ponte di prua era a nostra disposizione. Ma a quei tempi la pratica della box non era ancora diffusa in Irlanda e si stabilì che ci saremmo armati di due randelli, con uno dei quali stesi quel tipo in 4 minuti, piazzando sulla sua stupida zucca una mazzata tale che rimase mezzo morto sul ponte, mentre io ne uscivo senza aver ricevuto un solo colpo degno di nota. La mia vittoria sul gallo di quel vile e puzzolente pollaio mi guadagnò il rispetto dei disgraziati di cui ormai anch'io facevo parte. E servì a rialzarmi un po' il morale, che altrimenti sarebbe stato davvero molto basso. La mia situazione, poi, divenne presto più sopportabile per l'imbarco di un vecchio amico. Questi non era altro che il mio padrino nel fatale duello che mi aveva lanciato tanto presto nel mondo, il capitano Fagan. Il sergente ci stava facendo fare l'esercizio sul ponte, quando da riva venne una barca che portava alla nave il nostro capitano. Anche se sobbalzai e arrossii a venire riconosciuto, io, un discendente dei Berri, in quella posizione umiliante, vi assicuro che la comparsa del volto di Fagan mi fu più che gradita, perché ora sapevo di avere vicino a me un amico. Fagan, con una strizzata d'occhio, mostrò di avermi riconosciuto, ma lì, in pubblico, non diede nessun segno di amicizia. E fu solo 2 giorni dopo, quando ormai avevamo detto addio alla vecchia Irlanda e ci trovavamo in alto mare, che mi fece venire nella sua cabina. Allora mi strinse la mano cordialmente e mi fornì desideratissime notizie della mia famiglia. «Ho sentito parlare di te a Dublino», disse. «Diamine, hai cominciato presto, davvero figlio di tuo padre, e non credo che avresti potuto far meglio di ciò che hai fatto. Ma perché non hai mai scritto a casa alla tua povera madre? Ti ha spedito una mezza dozzina di lettere a Dublino?» Gli dissi che all'ufficio postale avevo chiesto se fossero arrivate lettere per me, ma per Mr. Redmond non ce n'erano mai. Non voglio aggiungere che dopo la prima settimana mi vergognavo di scrivere a mia madre. «Possiamo scriverle per mezzo del pilota», disse lui. «Ci lascerà tra 2 ore. Puoi dirle che sei sano e salvo e che hai sposato Bess, la bruna». Quando parlò di matrimonio, sospirai. Al che lui disse con una risata: «Vedo che stai pensando a una certa signorina di Bradystown». «Sta bene, Miss Brady?» dissi io, ma a dir la verità potevo a malapena pronunciare le parole, perché stavo davvero pensando a lei. L'avevo scordata durante la bella vita di Dublino, è vero, ma ho sempre osservato che nell'uomo le avversità rafforzano gli affetti. «Ormai ci sono soltanto 7, Miss Brady», rispose Fagan in tono solenne. «La povera Nora, mio Dio, che le è successo?» Credevo che il dolore l'avesse uccisa. «Era talmente sconvolta della tua partenza che ha dovuto consolarsi prendendo marito. Ora è Mrs. John Quinn». «Mrs. John Quinn? C'è dunque un altro John Quinn?» domandai completamente sbalordito. «Ma no, proprio lo stesso, ragazzo mio. È guarito dalla sua ferita e era ben difficile che la palla con cui l'hai colpito gli facesse del male. Era fatta solo di stoppa. Ma credi davvero che i Brady ti avrebbero permesso di mandare all'altro mondo 1500 sterline annue destinate alla famiglia?» Poi Fagan mi raccontò il resto. Si era reso necessario togliermi dai piedi perché quel vigliacco dell'inglese non voleva assolutamente sposarsi per paura di me. E allora era stato architettato il finto duello. «Ma tu l'hai proprio colpito in pieno, Redmond, con una pallottola bella grossa e tutta di stoppa. E quello era tanto spaventato che ci ha messo un'ora a tornare in sé. Più tardi abbiamo raccontato la storia a tua madre, che ci ha fatto una bella scenata. Poi ti ha spedito dietro a Dublino una decina di lettere, ma devi averle indirizzate al tuo vero nome, col quale tu non hai mai pensato di chiederle». «Vile», dissi, anche se devo confessare che ero molto sollevato di non averlo ucciso. E i Brady di Castle Brady hanno consentito di ammettere un tale imbelle in una delle più antiche e onorevoli famiglie del mondo. Ha pagato tutta l'ipoteca di tuo zio, disse Fagan. Fa girare Nora su un tiro da sei. Sta per vendere la sua compagnia e gliela comprerà proprio il tenente Ulick Brady della milizia. Quel gran vigliacco ha fatto la fortuna della famiglia di tuo zio. Diamine, hanno condotto in porto l'affare proprio bene. E poi, ridendo, mi raccontò che Mick e Ulick non avevano mai perso di vista il promesso sposo che cercava di scapparsene in Inghilterra finché le nozze non erano state celebrate e la coppietta era partita per Dublino. «Ti servono un po' di contanti, ragazzo mio?» continuò quel simpatico capitano. «Puoi attingere alla mia borsa, perché ho avuto 200 sterline da Master Quinn per la mia parte in tutto l'affare». E finché durano, non mancherai mai di niente. Benché io sia stato chiamato Capitano Barry per buona parte della mia vita, e come tale fossi noto alle maggiori personalità d'Europa, posso tuttavia confessare che questa qualifica non mi spettava più che a tanti altri gentiluomini che se ne fregiano. Non ho mai avuto diritto alle spalline, né a nessun altro grado militare più su dei semplici galloni di caporale. Fu Fagan a nominarmi caporale durante il nostro viaggio verso la foce dell'Elba e il mio grado venne confermato dopo lo sbarco. Mi erano anche stati promessi i galloni di sergente e forse quelli di sottotenente se mi fossi distinto, ma il fato non voleva che io rimanessi a lungo nell'esercito inglese, come si vedrà presto. Intanto la nostra traversata fu molto propizia. Le mie avventure erano state narrate da Fagan ai suoi colleghi ufficiali, che mi trattavano ora con cortesia, mentre la vittoria sul grosso portantino mi aveva procurato il rispetto dei miei compagni sul ponte di prua. Sbarcammo a Cuxhaven, e prima di aver trascorso un mese nell'elettorato, mi ero trasformato in un bel soldato alto e robusto, e avendo un'attitudine naturale per gli esercizi bellici, ero presto diventato esperto tanto quanto il più vecchio sergente del reggimento. Però, mentre è bellissimo sognare la gloria militare rimanendo a casa propria in una comoda poltrona, oppure facendo l'ufficiale, circondati da gentiluomini vestiti con sfarzo e rallegrati dalle possibilità di promozione, queste stesse possibilità non brillano per i poveracci con i galloni di filato. Quando vedevo passare un ufficiale, mi vergognavo della ruvida stoffa delle nostre giubbe rosse. Sentivo un tremito nell'anima a udire le loro voci durante la ronda, mentre sedevano allegri attorno alla mensa. E il mio orgoglio si rivoltava. Quando dovevo impiastrarmi i capelli con farina e sego, invece di usare la pomata che si confà a un gentiluomo. E così, i miei gusti sono sempre stati elevati e alla moda, e disprezzavo l'orribile compagnia in cui ero caduto. Che possibilità avevo di essere promosso? Nessuno dei miei parenti aveva denaro necessario per comprarmi il grado. Ben presto divenni così depresso che desideravo solo una grande battaglia e una palla che mi finisse, ma intanto giuravo che avrei trovato il modo di disertare. Quando penso che io, discendente dei re d'Irlanda, venni minacciato di fustigazione da un furfantello appena uscito da Eton, quando penso che poi mi offrì di fargli da attendente e che in nessuna delle due occasioni l'ho ammazzato. La prima volta scoppiai in lacrime, non mi vergogno di ammetterlo, e fui seriamente tentato di uccidermi, tanto ero avvilito. Ma il mio caro amico Fagan venne in mio aiuto con tempestive parole di consolazione. «Mio povero ragazzo», disse, «non devi prendertela così a cuore. La fustigazione è solo una disgrazia relativa. Il giovane sottotenente Fakenham è stato lui stesso fustigato a Eton appena un mese fa. Ci scommetterei che le sue cicatrici non si sono ancora richiuse. Devi stare allegro, ragazzo mio. Fa il tuo dovere, comportati da gentiluomo e non ti capiterà nulla di veramente brutto. Venni poi a sapere che il mio protettore aveva severamente rimproverato Mr. Fakenham per quella minaccia, dicendogli che in futuro avrebbe considerato un contegno simile come un'offesa personale. Cosicché il sottotenente, per il momento, prese a trattarmi con correttezza. Quanto ai sergenti, dissi a uno di loro che se qualcuno mi avesse colpito, chiunque egli fosse, e qualunque punizione dovesse poi toccarmi, l'avrei ucciso. E, diamine, nel mio discorso c'era un certo tono sincero che convinse tutta la congrega. Finché rimasi in servizio nell'esercito inglese, nessuna verga si erò mai le spalle di Redmond Barry. Quando mi fecero caporale, il mio malessere in parte diminuì. Per concessione speciale, andavo a mensa con i sergenti, offrivo loro da bere e, giocando con quelle canaglie, perdevo il denaro che il mio buon amico Mr. Fagan puntualmente mi forniva. Se queste mie memorie non fossero strettamente improntate alla verità e se io non disdegnassi di dire una sola parola al di là di ciò che è saldamente fondato nella mia personale esperienza, mi sarebbe facile farmi passare per l'eroe di qualcuna di quelle avventure bizzarre che sono di gran voga e, come fanno i romanzieri, presentare ai miei lettori le massime personalità di quei tempi memorabili. Costoro, i romanzieri, voglio dire, se prendono come eroe un tamburino o uno spazzino, combinano le cose in modo da fargli incontrare i più grandi signori, i personaggi più celebri dell'impero. Scommetto che nessuno di loro, nel descrivere la battaglia di Minden, farebbe a meno di mettere in scena il principe Ferdinando e milord George Sackville e milord Granby. Sarebbe stato facile per me raccontare che ero presente quando Lord George ricevette l'ordine di lanciare alla carica la cavalleria per completare la rotta dei francesi e rifiutò di farlo, diminuendo così la portata della grande vittoria. Ma il fatto è che ero a 2 miglia dalla cavalleria quando ebbe luogo la fatale esitazione di sua signoria e nessuno di noi soldati di linea seppe cos'era successo finché non ci trovammo a riparlare della battaglia quella sera davanti alle nostre teiere, mentre ci riposavamo delle fatiche di una giornata di duro combattimento. Quel giorno non vidi nessuno di grado più alto del mio colonnello, salvo un paio di ufficiali d'ordinanza che cavalcavano via nel fumo. Nessuno della nostra parte, voglio dire. Un povero caporale, quale ero io allora, sfortunatamente, in genere non viene invitato a intrattenersi con gli alti comandi e i grandi uomini. Ma in compenso vi assicuro che mi trovai in ottima compagnia con i francesi. Io detesto fare lo spaccone, ma non posso nascondere che feci una conoscenza molto intima con un colonnello francese. Gli ficcai in corpo la mia baionetta. Eliminai anche un povero piccolo sottotenente, così giovane, smilso e minuto, che invece di colpirlo con il calcio del moschetto, avrei potuto, credo, spacciarlo con un colpetto del mio codino. Oltre a questi due, uccisi altri 4 ufficiali e soldati. Nella tasca del povero sottotenente trovai una borsa con 14 luigi d'oro e una scatola d'argento piena di bonbon. Il primo di questi doni mi fu molto gradito. Se la storia delle battaglie la si raccontasse così, alla buona, credo che la causa della verità non ne soffrirebbe affatto. A parte ciò che ho letto sui libri della famosa battaglia di Minden, tutto quello che so l'ho detto. La scatola d'argento con i bonbon del sottotenente, la sua borsa piena d'oro, la faccia livida di quel povero diavolo mentre cadeva, gli urrà degli uomini della mia compagnia mentre uscivo dai ranghi sotto un fuoco vivace per andare a stenderlo, le loro grida e le bestemmie quando venimo alle mani coi francesi. A dir la verità, non sono ricordi molto nobili ed è meglio sorvolare rapidamente. Quando il mio caro amico Fagan venne colpito da una fucilata. Un capitano, suo commilitone e intimo amico, si rivolse al tenente Robson, dicendo: «Fagan è caduto. Robson, la compagnia è vostra». Tutto qui. L'epitaffio che toccò al mio coraggioso protettore. Volevo lasciarti 100 guinee, Redmond. Erano state le ultime parole che mi aveva detto. Ma la notte scorsa, a Faraone, ho avuto una maledetta sfortuna dall'inizio alla fine. Poi mi aveva stretto rapidamente la mano ed, essendo stata ordinata l'avanzata, me ne ero andato via. Dopo l'offensiva, tornammo sulle nostre precedenti posizioni. Lui giaceva ancora lì, ma era morto. Qualcuno dei nostri gli aveva già strappato le spalline e senza dubbio svuotato la borsa. Che mascalzoni! Che canaglie diventano gli uomini in guerra! Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.